Giugno 2008. La direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta mette sotto sequestro la Calcestruzzi S.p.A., filiale di Italcementi Group. I responsabili della filiale sono accusati di associazione mafiosa e di aver fornito calcestruzzo di qualità inferiore a quello previsto nei capitolati di appalto. I vertici di Italcementi Group, individuate alcune irregolarità nella gestione dell'impresa, avevano deciso di sospendere l'attività della controllata in Sicilia già nel dicembre 2007. Non solo. Per ribadire la propria linea di rifiuto di qualsivoglia contiguità o compiacenza con fenomeni di criminalità organizzata, i dirigenti di Italcementi passano al contrattacco e annunciano la nascita di un pool per studiare azioni di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Il pool è coordinato da Pierluigi Vigna, già procuratore nazionale antimafia. Nuove regole e procedure da adottare, che vanno oltre il protocollo di legalità standard e che puntano su una vera e propria tracciabilità dell'attività di Italcementi in Calabria nei lavori per l'autostrada.